fondamentale se serve poi per rilanciare un grande successo. Ecco perché io non lo vedo come un fallimento, e neppure grazie a Dio i miei sponsor, che ormai sono cresciuti con me e hanno capito di far proprio questo tipo di messaggio. Quindi io la rinuncia non la vedo mai come da sfigati, ma la vedo da virtuosi, se su questa rinuncia uno costruisce poi il grande successo successivo. E quindi, anche questa proiezione per prossime avventure. Grazie Simone Moro. L'invernale al Nanga Parbat è rimandata, scrive appunto Simone il 17 febbraio nel suo blog. Sicuramente qualcuno prima o poi la salirà questa montagna nella stagione fredda, magari saremo noi, magari qui a riprovarla. Noi con i muscoli, voi con la passione e il tifo, perché il sostegno è importante. Ma conclude, torniamo a casa senza cima, ma con la consapevolezza che l'alpinismo raccontato per quello che è, senza eccessi e senza enfasi, senza lotte, eroismi anacronistici. Già, c'è anche questo, e vi ricordo, e lo faccio volentieri, ho citato quella vicenda di 15 anni fa, ancora Cometa sull'Annapurna non è un libro appena uscito, è uscito appunto qualche anno fa, racconta una storia di speranza, di sofferenza, una storia anche incredibile, credo che ne converrete con me, per quello che è accaduto appunto a Simone, che oggi è qui a parlarci. Bene, noi adesso ci salutiamo un momento e poi torniamo sulla terra, parliamo di gioco d'azzardo. 24 mattino. Malati di gioco e allarme, questo è un titolo ieri dalle pagine appunto di un quotidiano, ma un allarme che richiama Milano, che coinvolge la Lombardia e che da cui appunto partiamo oggi con Luca Gaffuri, capogruppo PD Regione Lombardia. Buongiorno. Buongiorno a voi. Per parlare di una proposta che in estrema sintesi è quella di dotare macchinette nei bar di un dispositivo capace di leggere le tessere sanitarie. Obiettivo: allontanare i minori dal gioco, di una situazione che appunto ritorniamo ad affrontare, una situazione che crea molto allarme sociale. Ci dica di questa proposta. Ma questa proposta nasce dal gruppo consigliare del Partito Democratico. Abbiamo visto il diffondersi sempre più nelle fasce dei minori del problema della patologia del gioco d'azzardo, e riteniamo tra i vari elementi di proporre proprio l'utilizzo della tessera sanitaria in modo da avere una tracciabilità di chi si accosta al gioco d'azzardo, in modo da impedire ai minori di accedervi e dall'altra parte di avere un monitoraggio pur nel rispetto della privacy. Ecco, ma questo tipo di monitoraggio, immagino avrete fatto le vostre valutazioni, è praticabile? Nel senso che questo implica che la maggior parte del gioco d'azzardo sia monitorabile attraverso sistemi elettronici, lo è? Ma innanzitutto ovviamente bisogna dotare le macchinette di un apposito lettore, e dall'altra parte questa è una metodologia già utilizzata in Regione Lombardia anche per l'accesso all'acquisto delle sigarette nei dispenser. Quindi in estrema sintesi voi dite: cominciamo ad applicare la stessa tessera che è richiesta quando si acquista le sigarette appunto dalle macchine, e cominciamo a fare una tracciatura, una mappatura di questo fenomeno. Maurizio Fiasco, buongiorno, grazie di essere buongiorno con noi. Buongiorno a voi, buongiorno. Maurizio Fiasco è sociologo, consulente della consulta delle fondazioni anti-usura, se non sbaglio proprio nel pieno, sì. Lo disturbiamo nel pieno di un convegno su questo tema. Ecco, allarme che viene periodicamente rinnovato, qual è la situazione innanzitutto? Beh, la situazione è che siamo alla vigilia di una bolla, cioè di un settore che è stato fatto rigonfiare sia sul piano sociale, sul piano economico, sul piano dei rapporti tra le persone e della insostenibilità per i conti pubblici. Quindi poi pagheremo tutti perché quando questa bolla esploderà, ormai 80 miliardi, quasi il 10% dei consumi, e più la parte dell'illegale che è piuttosto cospicua, è un volume assolutamente insostenibile. Da che parte pagheremo la bolla? Perché dice che pagheremo tutti? Pagheremo la bolla perché sono tutti indebitati, sono indebitate le famiglie che giocano, sono indebitati i giocatori, sono indebitati i gestori, sono indebitati i concessionari, e sul debito dei concessionari si sono costruiti dei derivati finanziari. Allora questo sistema funziona se si allarga sempre di più. L'anno scorso 61 miliardi e 500 milioni, l'anno scorso in 2010, nel 2011 circa 80 miliardi. Possiamo arrivare a questi ritmi di crescita a 120, 110? Cioè rinviando la contabilità indefinitamente. Mi spiego ancora meglio. Per avere gli stessi ricavati lordi, non percentuali ma lordi, bisogna incrementare il consumo, cioè consumo crescente, rendimento decrescente. Oggi con 80 miliardi di spesa lo Stato ha ricavato meno di quello che ha incassato nel 2010. La cifra è di 150 milioni in meno. E siamo passati da 61 a 80. E 500 siamo passati a 80. E l'introito è diminuito. L'introito è leggermente diminuito. Quindi per fare gli stessi numeri di ricavato, ma questo vale anche per la filiera, anche per i gestori e per i concessionari, perché si deve ridurre sempre di più il margine sia della tassazione sia del ricavato proporzionale. Quindi spingere. Ma questo spingere ha un limite fisico, nel senso che oltre il 10% della spesa per consumo degli italiani non si può arrivare. E voglio dire, quindi quando si arriverà, e secondo me si è già arrivato al limite fisico, e ci sarà l'effetto domino. Perché per incrementare la crescita si sono dovuti fare dei debiti, cioè i concessionari che sono sottopatrimonializzati e sottocapitalizzati hanno dovuto chiedere i soldi in prestito per poter investire, e poi al momento del pagamento delle rate del prestito hanno dovuto chiedere l'emissione di obbligazioni, cioè di derivati sul loro debito. E da lì la catena. Fiasco, ci dica una cosa, gioco e tempo di crisi, come vanno? Gioco e tempo di crisi dipende la cornice con cui si commenta la crisi, perché nel 92 ci fu una grande recessione, una grande crisi, tutti ci ricordiamo il tasso ufficiale di sconto a due cifre, la svalutazione della lira al 30%, il crollo della domanda, eccetera, eccetera, la tassazione, la manovra aggiuntiva dell'estate pazzesca, solo che all'epoca la cornice fu risparmiare, rilanciare la crescita. E quindi la crescita dell'azzardo fu una crescita moderata. Adesso, se sul tempo di crisi, quindi sulla perdita di fiducia nel futuro, costruiamo un marketing che affida all'azzardo la possibilità di uscire da un disagio, da una difficoltà e da una sofferenza, è chiaro che c'è una correlazione positiva. Più crisi, più azzardo. Insomma, da questo punto di vista, se gli introiti diminuiscono, i numeri complessivi ci indicano che per adesso il gioco in termini di volume complessivo aumenta. Senatore Raffaele Lauro, bentornato qui a Radio 24. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, lo ricordo, senatore Lauro è stato prefetto, parte senatore del PDL, primo firmatario soprattutto per quello che riguarda, diciamo, il nostro dialogo appunto iniziato qualche mese fa, di un disegno di legge per la regolamentazione del gioco d'azzardo. Lei a suo tempo è stato molto critico, ha spiegato che, insomma, muoversi all'interno del Parlamento, del Senato su questi temi è complicato, è bipartisan, nel senso che non mi è sembrato mai registrare, no, un po' le classiche questioni di partito, ma è difficile e le lobby sono fortissime. Ora, oggi potrebbe essere un giorno significativo per questa vostra battaglia. Che succede? Allora, l'analisi del professor Fiasco è un'analisi realistica che io condivido appieno. Stamane forse è un giorno buono per il nostro paese, perché nonostante le mie battaglie, l'apparente unanimità su tutte le mie proposte e quelle della Commissione Antimafia, le lobby agiscono nel silenzio e cercano di ostacolare il processo dell'iter parlamentare per arrivare a norme assolute di trasparenza contenute nel mio disegno di legge 3104, che è stato sottoscritto da decine di senatori e la cui urgenza è stata approvata all'unanimità dall'Aula del Senato nelle scorse settimane. Urgente, perché, dunque, siamo vicini a un esito o non è proprio così? No, non siamo vicini ad un esito se il governo Monti e il Presidente del Consiglio stamane non accoglie, come sembra da indiscrezioni di stampa, alcune di queste norme a tutela dei minori e per la trasparenza antimafia delle società di gestione nel decreto sulla semplificazione fiscale. Nelle settimane scorse, di fronte all'apparente unanimità e alla sostanziale, diciamo, ostilità nei confronti delle proposte dell'antimafia e delle mie proposte, ripeto, condivise da decine di senatori di tutti i gruppi, io mi sono appellato al presidente Monti perché non c'è più tempo da perdere. Cioè, noi ci troviamo in una situazione alla vigilia di una devastazione sociale già in atto. Quello che dice Fiasco è vero. Io, guardi, al di là delle analisi economiche sulla caduta delle entrate, che condivido perché sono dati oggettivi, io credo che tra 2-3 anni delle persone incendieranno le sale giochi, ci sarà una rivolta sociale. Quando questa bolla esploderà e le famiglie saranno ormai costrette sul lastrico in un numero di centinaia di migliaia, una rivolta sociale brucerà le sale giochi. 8:48 minuti all'800 24 00 24. Ci ha chiamato pochi momenti fa un ascoltatore che voleva raccontarci, da quanto mi dicevano in regia, ma adesso mi fanno segno che la linea è caduta, diciamo il punto di vista anche dei gestori, se ho capito bene. Allora, buongiorno. Pronto? Pronto? Buongiorno Alessandro. Ah, buongiorno. Ci dica, ho capito bene, lei è un gestore. Sì, io sono un gestore. Ci dica. Allora, francamente, sentire il senatore Lauro che paventa scenari di tipo incendiare le sale giochi non mi sembra una bella cosa. Anche perché sempre dietro... Beh, lui non è che, come dire, li invita a questo. Quello che dice, no, è c'è un rischio sociale. Prego, comunque ci dica. Allora, per quanto riguarda la preferenza degli italiani di giocare a questo tipo di apparecchi, evidentemente il ritorno che ne hanno è superiore a quello che hanno giocando ad altri tipi di giochi. Faccio un esempio: Lotto, Superenalotto, Gratta e Vinci e quant'altro. Ma comunque sia, l'origine di tutto, diciamo, l'intervento dei monopoli di Stato era stato indirizzato al controllo del gioco d'azzardo, e cioè se il gioco d'azzardo viene controllato dallo Stato, evidentemente c'è meno evasione, c'è meno corruzione. Certo, controllare il gioco d'azzardo oggi, rappresenta, secondo una scelta che è stata fatta in qualche modo, anche una messa in sicurezza. Io ringrazio Alessandro da Latina, il suo concetto era chiaro. Quasi però chiedo al professor Fiasco, sembra quasi che ci sia un guadagno netto degli italiani nel gioco d'azzardo. Dunque, prima come si guadagnava, tra virgolette, sul gioco? Aspettando l'evento, l'estrazione del numero del lotto, lotteria, eccetera. La lotteria, la giornata del campionato di calcio, cioè si aspettava la vincita consistente. Chiaramente si aspettava una volta, due volte, adesso tre volte a settimana. E nell'attesa si fanno le proiezioni fantastiche, si fa il bilancio, eccetera. Cioè si ha questa funzione compensatoria del gioco. Ma questo modello ha dei limiti alla crescita, perché se non tratti la frustrazione del perdere con delle piccole e insignificanti vincite, quando si va a giocare alle slot machine, nelle sale, sia nelle vecchie slot che sia nelle nuove, non è che si sta una giornata e si perde sempre. Si perde, si vince, si riperde, si vince. I conti, come si suol dire, si fanno alla fine. Come dire, questa sì. Non vincere si tollera dalla lotteria di Capodanno, ma non certo da una frequentazione. Ma non, esattamente, da un gratta e vinci, dalle slot machine, o anche dai giochi online, perché non ne abbiamo parlato, si incendieranno le sale, forse, speriamo di no, insomma, che si arrivi, certo, a evitarlo. Prima. Ma non sarà possibile incendiare i server dei giochi online che l'anno scorso hanno raggiunto 9 miliardi di euro, dando allo Stato 160 milioni, non miliardi, milioni di entrate, cioè l'1,8%, una cosa ridicola. Quindi la frustrazione viene trattata mettendo dell'adrenalina nel giocatore ogni tanti minuti con delle piccole insignificanti vincite. Attenzione, non è che viene a sapere subito l'entità di questa vincita. I gratta e vinci, se noi ne compriamo 10, sicuramente 2 o 3 sono positivi, cioè c'è una vincita. Ma quant'è questa vincita? 100 euro, 200 euro? No, è una vincita irrisoria, inferiore al prezzo del biglietto. Ma lo veniamo a sapere quando andiamo al botteghino, presentiamo il tagliando con scritto hai vinto, vai a vedere, e allora il gestore ci dice no, hai vinto 5 euro, che cosa vuoi? Vuoi un altro biglietto o vuoi questi soldi? È chiaro, dunque esiste un percorso, come dire, una cultura in senso quasi dell'agronomo, della crescita del desiderio che ha trasformato il modo di giocare, che rende il problema assai complesso. Grazie a Maurizio Fiasco, io concluderei con Raffaele Lauro. Dunque, a che punto siamo? Torniamo all'attualità. Allora, noi ci auguriamo, almeno tutti i senatori che hanno sottoscritto queste iniziative legislative, compreso il presidente Pisano dell'Antimafia, che stamane il governo nel decreto sulla semplificazione fiscale inserisca le prime norme antimafia, antillecito, antievasioni e per la trasparenza e la tutela dei minori. Che dia un segnale anche che in questo modo. Che dia un segnale il governo. Poi presenteremo tutti insieme come antimafia, abbiamo già concordato, alcuni emendamenti ispirati proprio all'analisi del professor Fiasco. Questa è una prima fase, ma è urgente, non possiamo attendere un anno un provvedimento di legge. Guardi, vorrei nel chiudere dire ai gestori che io non ho mai sostenuto che tutti i gestori sono dei criminali o sono legati alla criminalità organizzata, ci sono persone degne di stima, sono le norme che sono insufficienti. A Las Vegas, se un minore viene scoperto alle slot, viene arrestato immediatamente il titolare della sala. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha varato una sentenza con la quale le famiglie dei ludopatici sono in grado di chiedere un risarcimento ai gestori, e questo viene sempre assicurato dai tribunali degli Stati Uniti. Ci vogliono norme pesanti di trasparenza e di deterrenza, altrimenti veramente questo paese diventa una sorta di Far West che collega, oltre al gioco d'azzardo, lo spaccio della droga, l'usura e tutto ciò che ne Grazie conviene. A Raffaele Lauro, senatore del PDL, seguiremo anche con lui questa vicenda. Siamo in conclusione, tempo di GR24, da lunedì Alessandro Milan torna a 24 mattina, noi ci sentiamo domattina a partire dalle 9 a Punto e a Capo, a presto.